Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. La puntata di oggi è dedicata a una donna incredibile, una cantante unica, ma non solo. Una persona che vive una vita piena di eventi tragici, riesce a superare ostacoli invalicabili, emerge nonostante tutto, dando il famoso colpo d'ala, quello che noi cerchiamo sempre nei nostri protagonisti. Stiamo parlando della immensa Billie Holiday. I'm a fool to want you. E noi cercheremo di conoscerla meglio, di andare a scavare nella sua personalità decisamente anticonformista. Scopriremo una Billie Holiday un po' lontana dai luoghi comuni che la dipingono come vittima di una vita difficile. Conosceva le peggiori parolacce in almeno una quindicina di lingue diverse e le diceva a tutti quelli che passavano per la strada. Alcune volte qualcuno la prendeva e gliele suonava di santa ragione, ma lei continuava a farlo lo stesso. Molto della vita dei grandi dipende dai loro biografi. Per esempio Donald Clark, che racconta i primi anni di vita di Billie Holiday. È una ragazzina nera e poverissima, vive nei quartieri periferici malfamati di Filadelfia, e Donald Clark la dipinge come una teppistella ribelle dalla testa dura. La madre, Sadie Harris, è una donna delle pulizie, una ragazza delle pulizie, perché ha solo 18 anni quando Billie Holiday viene al mondo, è il 7 aprile del 1915. Il padre, Clarence Holiday, chitarrista, ha solo 16 anni. Inutile dire che i due non si sposano. La madre, per mantenere la figlia e anche un po' perché è quello che fanno da tutte quelle parti, diventa una prostituta. Quindi Billie cresce per strada e si fa le ossa fin da piccolissima. È una tosta, non si fa intimidire da nessuno, soprattutto impara presto che è meglio se pensa da sola a se stessa. La notte di Natale del 1926 è destinata a cambiare la vita di Billie Holiday. Nonostante la ricorrenza, sua madre, come al solito, non c'è e sicuramente con qualche cliente tornerà a casa più tardi. Benché abbia 11 anni, Billie è da sola e quando il vicino di casa Wilbur Rich suona alla porta, lei ingenuamente gli apre. Al suo rientro, a notte inoltrata, Sadie scopre che Billie è stata violentata da quell'uomo. Non ci è dato di sapere con esattezza quello che Billie abbia provato, perché lei non ne parlerà mai volentieri, ma ce lo possiamo immaginare. Quello che lei vive come un'ingiustizia è ancora più grande della violenza, è il seguito della vicenda. Lui fu condannato a 3 mesi di galera, ma io, che a regola ero la vittima, fui rinchiusa nella casa del buon pastore per ragazze di colore. Quelle suore non le sopportavo, pensavano che fossi stata io con il mio comportamento ad indurre il mio vicino a violentarmi. Pensa un po' che assurdità. Mi fecero talmente arrabbiare che scappai, ma loro mi ripresero. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't. Billie è una ribelle, va domata, così pensa la madre superiora della casa del buon pastore, che è un convento per il recupero delle ragazze di colore che vivono per le strade, si prostituiscono, si drogano. Ma allora siamo ancora in anni in cui questo tipo di attività vengono fatte veramente in maniera maldestra. Il concetto è che sono ragazze difficili, vanno trattate con fermezza, che per domare un osso duro ci voglia la mano di ferro. La madre superiore è scoperta cogita addirittura una messa in scena macabra per fare abbassare la cresta a Billy, la fa dormire in una notte intera in una cella dove giace una sua coetanea morta. Questa nottata con un cadavere Billy non la dimenticherà mai, e forse un'esperienza dura almeno quanto quella della violenza sessuale. Quando finalmente viene rilasciata dal convento non è più una bambina, è cresciuta di colpo. Mentre era via, la madre ha avuto una pensata delle sue, vuole provare a rifarsi una vita dove nessuno la conosce. E così Sadie e Billy partono alla volta di Harlem, il cuore nero di New York. Il numero 151 West della 140esima Harlem non è un bel edificio, è fatiscente, maleodorante, l'esatto specchio della proprietaria Florence Williams. È una strana donna che la madre presenta a Billy come la loro nuova padrona di casa, ma a giudicare da come è vestita, o meglio da come non è vestita, è facile intuire la sua professione. È la tenutaria di un bordello dove Sadie inizia a lavorare e dove, dopo appena pochi giorni, Billy, che ha ormai 14 anni, viene avviata anche lei alla professione di prostituta. Eppure anche in un luogo come questo, dove la povertà e lo squallore generano un micidiale cocktail di infelicità, è possibile scoprire la bellezza, perché Billy ascolta i dischi che le ragazze mettono per intrattenere i clienti. E qui, in un oscuro bordello di Harlem, per la prima volta in vita sua, Billy Holiday ascolta Louis Armstrong, Count Basie, Bessie Smith. Harlem è un posto fantastico per chi come lei ama la musica, specialmente quel jazz che si sente suonare un po' ovunque, che aleggia da tutte le parti. Organizzavano dappertutto feste private, una specie di gara musicale. Si pagava qualcosa all'ingresso mettendo gli spiccioli in una ciotola, e una volta dentro ti poteva capitare di sentire Fats Waller e Duke Ellington che si sfidavano a suon di canzoni meravigliose. Alla fine il pubblico presente votava con gli applausi, e quello dei due che vinceva si beccava The Door Money, i soldi della porta. Hurry, hurry, hurry, now it's coming. Il falco e il gabbiano. Dall'etame nascono i fiori, disse e scrisse qualcuno. Bene, noi stiamo raccontando una storia che parla proprio di questo. La incredibile ascesa, direi la rivincita, di Billie Holiday. Billie Holiday trova nella musica la sua salvezza. Ascoltandola si sente bene, riesce a sopportare la vita difficile che sta conducendo. Sì, perché siamo arrivati al punto in cui Billie Holiday sta facendo la prostituta a Harlem. Però il 2 maggio del 29 accade qualcosa che cambia per sempre la sua vita. È una retata che chiude le porte del bordello di Florence Williams e apre quelle della Welfare Island di Manhattan, casa di reclusione e di lavori forzati, dove Sadie e Billy, la giovane madre e la giovanissima figlia, vengono rinchiuse per 100 giorni. Billy ha 14 anni, ma prende una decisione irrevocabile. A lei piace il jazz, le piace cantare, e quando uscirà di lì farà quello che decide lei e non quello che le dicono di fare gli altri. Sarà una cantante, così racconta il biografo Donald Clark. C'erano alcuni artisti a Harlem, cantanti, ballerini, performer, che giravano di club in club, si esibivano tutta la notte. Billy si unì a loro. Girava di tavolo in tavolo cantando sempre la stessa canzone, ma ogni volta in maniera diversa. Fu così che imparò ad improvvisare su una melodia sola in una quantità incredibile di modi differenti. Fu per lei un training eccezionale. L'esordio di Billie Holiday è molto duro. I cantanti che si esibiscono, uomini o donne che siano, vengono pagati direttamente dai clienti, però sono sottoposti a una pratica umiliante. Non possono prendere i soldi con le mani, i clienti glieli infilano addosso, spesso nelle parti più intime. Tutti accettano questa sorta di svilimento della propria esibizione, tutti, tranne naturalmente lei, tranne Billy. Lei o i soldi li prende con le mani o li rifiuta. È durante una di queste serate che Billy incontra suo padre, il chitarrista Clarence Holiday, quello che l'aveva avuta a 16 anni, e lui intanto suona nella grande orchestra di Fletcher Anderson. Si parlano appena, in fondo non si conoscono, ma qualcosa, forse proprio la musica, li unisce con un filo invisibile. Una sera Billy canta al Covans, che è un locale sulla 132esima West di Harlem, e improvvisa come al solito. Fra il pubblico c'è un uomo che al sentirla resta di sasso e non gli è mai capitato in tutta la vita di ascoltare qualcosa di simile. E non è un pivellino, si chiama Johnny Henry Hammond II, un produttore musicale. In realtà è molto di più, è un ricchissimo rampollo di una famiglia nobile e facoltosa, molto attenta ai diritti sociali, impegnata nelle lotte civili da molti decenni. Hammond è convinto del potere della musica di unificare le razze e le genti. Non ho mai avvertito nessuna linea di demarcazione di colore nella musica. È una musa universale e potente. Portare al riconoscimento della supremazia nera nel jazz è la forma di protesta sociale più efficace e costruttiva a cui potessi pensare. E infatti Hammond è un musicista illuminato. I suoi ascoltano Bach, Beethoven, Vivaldi o tutt'al più si dilettano con la voce di Enrico Caruso. Bene, lui scende negli alloggi della servitù nera e ascolta il jazz. E quella sera nel 32 al Covans di Harlem ascolta Billie Holiday, che gli ricorda quei vecchi camerieri che intonavano le canzoni dei loro padri, schiavi nelle piantagioni di cotone del sud. But till that morning, there's nothing can harm you. With daddy and mammy standing by. Hammond è strabiliato al termine della performance di Billy, la avvicina e le propone immediatamente di organizzare un debutto discografico assieme all'orchestra di Benny Goodman, del quale è produttore. Billie Holiday ha 18 anni quando nel novembre del 33 debutta con l'orchestra di Benny Goodman e vengono rilasciati i suoi due primi singoli, Your Mother's Sons-in-Law e Riffin' the Scotch. Hammond si rivela un produttore fantastico, ha un'intuizione grandiosa. Billy è bravissima a improvvisare, le si deve dare carta bianca. Il nuovo mercato dei jukebox richiede produzioni agili, veloci, sempre nuove. Lo swing di Billy conquista immediatamente il pubblico. Le sue canzoni sono le più gettonate perché sono diverse, hanno il sapore dell'improvvisazione, come raccontava sempre Hammond. Billy arrivava in sala di registrazione insieme a Teddy Wilson, uno dei più grandi pianisti swing che siano mai esistiti. Non era stato deciso alcun arrangiamento con altri musicisti. Non erano stati spesi soldi. Loro arrivavano lì semplicemente portando se stessi e la propria arte. E nel tempo di una sessione portavano a casa una canzone. Ed era fantastica. Questo sistema ci permetteva di produrre a costi ridottissimi. E fu in questo modo che riuscimmo a sopravvivere nei periodi di crisi in cui molti produttori fallivano. Beh, quello è un momento in cui un disco, quando vende 3-4 mila copie, è già considerato un successo, praticamente come adesso, qua in Italia. Bene, Billy non scende mai al di sotto delle 5 mila copie, addirittura fa il botto con I Cried For You, che vende in una sola settimana 15 mila copie, che è un record per quei tempi senza precedenti. È nata una stella che porta sempre tra i capelli una gardenia bianca, che è il suo fiore preferito. Durante una sessione di registrazione con Hammond, Billy fa un incontro molto importante. Incontra un sassofonista incredibile, un artista straordinario, considerato uno dei più grandi musicisti jazz di tutti i tempi. Stiamo parlando di Lester Young. Quando Billy lo vede in sala di registrazione lo riconosce subito. Quel ragazzo era stato un affittuario di sua madre alcuni anni prima e già allora aveva provato per lui una simpatia immediata, e ritrovarlo e scoprire di poterci lavorare è un regalo della vita per Billy. Da quel momento le loro esistenze si intrecciano alle rispettive carriere. Lui le dà il soprannome che l'accompagna per gli anni a venire, Lady Day. Lei per contro lo chiama President. I due si aiutano, si sostengono a vicenda, amano le stesse cose, tra le quali purtroppo anche gli stupefacenti di cui hanno cominciato a fare largo uso. Soprattutto sono una sola anima che canta e suona contemporaneamente. Ad ascoltare alcune vecchie registrazioni di allora, Lester e io sembriamo le due parti di una stessa voce. Se non ci stai proprio attento, senti il suono di un'unica mente. Nel 37 succede un fatto veramente drammatico. Il padre di Billy, Clarence Holiday, si ammala di polmonite fulminante e muore perché non trova in tempi brevi un ospedale disposto a ricoverarlo in quanto nero. Vicende all'ordine del giorno in anni in cui il razzismo è ai suoi massimi livelli, però quando ti toccano ti trasformano. Dopo non sarai mai più la stessa persona e Billy non l'ha mai frequentato suo padre, in fondo non si conoscono nemmeno, ma è sempre suo padre e il pensiero che non gli sia stata data la possibilità di curarsi solo perché è di colore la fa imbestialire. È arrabbiatissima e da quel momento il suo impegno nei confronti della causa antirazzista diventa costante. A questo si aggiunge un altro fatto che ferisce il suo orgoglio già dolorante. Lei e Lester Young partono per una importante tournée con la band di Count Basie e tra poco sapremo cosa accade. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la epica, romantica, meravigliosa storia di Billie Holiday. Ascoltarla è come leggerle dentro, sentire con lei un'emozione che racconta e sembra di avere vissuto in prima persona la sua vita. Una vita che non è iniziata in maniera facile, poverissima, nera in un mondo comandato dai bianchi, violentata a 11 anni, prostituta a 13, condannata ai lavori forzati, ma non per questo doma. Perché in lei brucia un fuoco che alimenta la sua passione per la musica. Sentiamo cosa diceva. Ho sempre cantato fin da quando ero molto piccola. Cantavo mentre facevo qualsiasi cosa. Ma mai mi sarei aspettata di poterci fare dei soldi da quel mio cantare. Non pensavo proprio di potermi mantenere e viverci, insomma. Poi qualcuno mi disse: «Ma sai cantare?» «Certo che so cantare», risposi. Ed allora ho iniziato. E anche se mi pare strano, mi pagano per farlo. Però lo scenario non è favorevole ai neri in quegli anni. Abbiamo già visto come la morte del padre abbia provocato in lei un senso di ribellione fortissimo, perché il padre muore perché non trova un ospedale disposto a curarlo in quanto nero. Ma poi accade qualcosa ancora più sgradevole. Lei e Lester Young partono per una importante tournée con la band di Count Basie e possono capire bene come la pensava l'America di quegli anni. Le band nere non potevano mica dormire negli hotel. Dovevamo farci ospitare dalle famiglie di colore nelle diverse cittadine dove tenevamo gli spettacoli. Non potevamo mangiare dove mangiavano i bianchi. Avevamo i nostri ristoranti o al massimo si mangiava nel retro degli alberghi. Non potevamo nemmeno andare al bagno dei bianchi. Era una cosa degradante. Ma c'è anche da divertirsi, perché sono gli anni in cui le band nere si sfidano in lunghi e agguerriti duelli musicali. Tra la gente c'è un tifo come quello del calcio, c'è chi sostiene, non so, Count Basie e chi invece il suo acerrimo rivale, Chick Webb. Le due band hanno una punta di diamante ciascuna, da un lato Billie Holiday, dall'altro una ragazzona di appena 20 anni con una voce che non è niente male. Questa ragazzona si chiama Ella Fitzgerald. I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad. Billy contro Ella. C'è perfino chi scommette sulle loro performance, chi giura che le due cantanti si odiano e se si incontrassero per strada si accapiglierebbero. In realtà non c'è niente di vero, però questa rivalità tra le band crea rumore e porta pubblico nei locali. Soprattutto fa salire le quotazioni delle cantanti, tanto che presto Billy riceve una proposta davvero interessante e soprattutto rivoluzionaria. Marty Shaw, il clarinettista per eccellenza, il compositore capo di una delle band più chic, più ambite dell'epoca, tutta composta solo ed esclusivamente da elementi bianchi. Bene, è proprio lui in persona che contatta Billie Holiday nel febbraio del 38, la vuole come sua cantante. Ma lei è veramente stupita. Ma lo sa questo signore che lei ha la pelle nera? Eppure lui la vuole con sé proprio per una tournée che attraverserà tutti gli stati del sud, quelli più razzisti. Non c'è che dire, Artie Shaw ha coraggio, il coraggio va premiato, così la pensa Billy, è per questo che accetta la sua proposta. Me ne pentii amaramente quasi subito. Una delle prime sere mi fu detto che non potevo sedermi nello spazio riservato agli altri membri della band perché ero nera. Artie si arrabbiò moltissimo. Disse che mi voleva lì e che non c'era storia. Alla fine mi fecero sedere con gli altri, ma io mi sentii morire. Avrei voluto spaccare tutto e andarmene. Altro che cantare. Parte una serie di concerti negli Stati del Sud, una band di grande livello, un capo come Artie Shaw, bello, elegante, famoso, sempre rigorosamente vestito in smoking, canzoni di grandissimo successo, uno show strabiliante, è tutto perfetto, tutto tranne un particolare che si chiama Billie Holiday, una cantante nera, laddove i neri non possono entrare, non possono mangiare con i bianchi, mischiarsi a loro, qualcosa di impensabile. È un affronto che precede la band nei suoi spostamenti con una fama negativa. Poi l'evento decisivo, come ricorda lo scrittore David Margolik. Avevano un concerto a New York, nell'hotel Lincoln. Le fu detto che doveva prendere l'ascensore di servizio, quello della servitù, perché era nera e i clienti bianchi avrebbero potuto essere disturbati dalla sua presenza sul loro ascensore. Probabilmente fu la goccia di troppo. Lasciò immediatamente l'hotel e anche la band. That she quit the band. Eh sì, perché Billie è una donna che non cede, è una ribelle, una dura, è la stessa che anni prima, appena adolescente, ha scelto di sfidare la sorte, quella vita già segnata, fatta di miseria, soprusi, violenza. Lei decide che non ci sta, prende il timone della propria esistenza ancora una volta. È un gesto che le regala una notorietà assoluta. Artie Shaw, quello che sceglie lei nera tra i bianchi, le regala un'opportunità unica, quella della ribellione eclatante, un gesto davanti agli occhi di tutti che la trasforma in un'eroina per i neri e una condanna vivente per i bianchi. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Al Café Society di New York, nel Greenwich Village, decine di occhi guardano una gardenia bianca. Billie Holiday ne appunta sempre una tra i capelli, è il suo segno di riconoscimento. La giovane donna canta Strange Fruit. Strange Fruit è una vera e propria denuncia antirazzista, è stata scritta dal poeta Abel Meropol in seguito al linciaggio di due giovani neri nell'Indiana, perché anche allora avvenivano queste cose, anzi in maniera più cruenta. E questi due ragazzi erano stati accusati di omicidio. Billie sa che rischia molto perché lei stessa ha subito delle intimidazioni e le è stato caldamente consigliato di non cantare quel brano, perché quel brano accusa apertamente i bianchi di giustiziare i neri senza un processo. Bene, lei disobbedisce. Non nego che un po' di timore l'avevo. Certi tipacci erano venuti nel mio camerino e mi avevano consigliata di non cantare Strange Fruit. Ma io la cantai lo stesso perché mi vedevo sempre davanti mio padre. Nessun ospedale lo aveva voluto ricoverare quando si era ammalato di polmonite perché era un nero ed era morto così, senza cure. Questa cosa io non potevo sopportarla. Dovevo fare qualcosa anche io per la nostra situazione. Father sent you right. Il Caffè Society è un club assolutamente unico nel suo genere. Il proprietario Barney Josephson ne fa il primo locale di integrazione razziale, dove in nome della musa più universale che esista, cioè la musica, tutte le razze possono ritrovarsi e vivere un'esperienza libera da qualsiasi forma di pregiudizio. Billie Holiday è la cantante perfetta per questo tempio dell'integrazione, perché è ribelle, incapace di accettare i compromessi, ha lasciato uno dei gruppi musicali più famosi d'America, quello di Artie Shaw, perché non sopporta i pregiudizi che accompagnano le sue performance in giro per il paese. Decide di esibirsi da quel momento come solista. E quella di Strange Fruit è la sua personalissima e discussissima dichiarazione di indipendenza. Gli alberi del sud portano appesi strani frutti. Sangue sulle foglie e sangue alle radici. Corpi neri ondeggiano nella brezza del sud. Strani frutti pendono dagli alberi di pioppo. Citata addirittura sul Time Magazine per il suo coraggio, Billie raggiunge un grado di popolarità altissimo. Tutti i suoi dischi sono delle hit. Anticonformista sul palcoscenico come nella vita, e lei fa scalpore. Sessualmente è molto disinibita, ha relazioni sia con uomini che con donne, da Orson Welles all'attrice Tallulah Bankhead, ma soprattutto è nota per la sua dipendenza da alcol e droghe di ogni genere. Il suo biografo Donald Clark racconta un episodio pazzesco. Una volta il grande Charlie Parker andò a trovarla in albergo. Lei si stava preparando una dose di cocaina e per non farsi scoprire la nascose sotto il letto. Mentre chiacchieravano in salotto, i due videro arrivare il cane di Billie, il suo magnifico boxer mister. Era tutto stranito e stava male perché aveva leccato quella polvere bianca sotto il letto. I successi di Billie si alternano a momenti di grande depressione. Si sposa ma non riesce a avere figli, forse questo è uno dei dolori più grandi della sua vita. La chiamano sul set del film New Orleans. Sarebbe una grandissima e meravigliosa esperienza per lei che sogna il cinema, ma scopre con disappunto che la sua parte, una piccolissima parte, è quella di una cameriera di colore col pallino del canto. Ascoltiamo l'audio originale di una sua battuta. What it means to miss New Orleans when that's where you left your heart. Envy, didn't I tell you not to let me catch you at that piano again? I'm sorry, ma'am. If I'd have heard you coming, I wouldn't have let you catch me. Il suo spirito ribelle è già furibondo, lo prende come un affronto, ma poi accetta la parte perché su quel set può incontrare uno dei suoi miti, il grande Sashmo, Louis Armstrong. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? Ma il problema della tossicodipendenza di Billie diventa drammatico perché incide non solo sulle sue finanze, ma anche sulla resa del suo lavoro, sulla sua puntualità. Ormai tutti sanno di questo suo problema. Lei si aspetta una soffiata prima o poi, e infatti una sera dopo uno spettacolo a Filadelfia, mentre si trova in camerino, sente bussare alla porta. Sono i poliziotti. Iniziano una perquisizione accurata, forse non vedono l'ora, e infatti dentro un paio di calze di seta trovano una notevole quantità di cocaina. Le porte del carcere si aprono per Lady Day. Per un anno e un giorno rimane rinchiusa nel penitenziario femminile di Alderston in West Virginia. Mentre si trova in carcere, il suo pensiero costante è il dopo. Senza la New York City Cabaret Card, cioè il documento che tutti i performer devono possedere per poter lavorare nei locali che vendono alcol e che le è stata ritirata, è destinata a fare la fame. Lei di soldi da parte non ne ha perché ha speso tutto con la droga. Ma quando esce dal carcere, nel marzo del 48, ha una sorpresa. I suoi manager le hanno organizzato un concerto alla prestigiosa Carnegie Hall. Billie esita, pensa, ma la gente ci verrà a sentirmi dopo che sono stata in galera? Il suo biografo Donald Clark ricorda l'evento unico. Ci fu il tutto esaurito con 2700 biglietti venduti in prevendita. Un fatto mai accaduto prima. Billie era molto nervosa, tanto che appuntandosi la solita gardenia tra i capelli si ferì in maniera piuttosto seria ed arrivò sul palcoscenico sanguinante. Fu un trionfo. È un trionfo che non cambia la vita di Billy. Alcol, droga, uomini sbagliati che la picchiano sono cattivi compagni di viaggio per lei, che però non sa farne a meno. Il suo è un declino costante che la porta all'autodistruzione. A soli 44 anni muore di cirrosi epatica, ponendo fine a una vita vissuta in pieno, forse costellata di sbagli, ma di sicuro la vita che lei aveva scelto di vivere. Le nostre sono storie spesso sconosciute, storie di chi è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute e risalite, come Billie Holiday. Ciascuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche dare il colpo d'ala che lo porta a volare in alto, come il falco e come il gabbiano. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure sul nostro sito, oppure ci trovate. Ciao a tutti, a domani. Gloom and misery everywhere, stormy weather, just can't get my poor self together. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno.